Quali mi piacciono? La fragilità, a che Ah, suono può assomigliare? non so, è una domanda un po' difficile. Comunque, non per salvarmi in corner, vi dico un'altra cosa, se c'è un rumore che a me dà piacere, è il rumore dei corsi d'acqua un po' fragoroso, che non si dice quando sono in piena, hanno il loro fascino, magari anche quando sono in piena sono fragorosi i suoni, però l'acqua che scorre un tempo mi metteva un senso di calma anche nei momenti in cui mi sentivo molto male.